Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento con l'Adico di Mestre, un saluto a Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto agli ascoltatori. Gianluca, parliamo oggi di termosifoni, di caldaie, perché dal 15 ottobre ripartono gli impianti di riscaldamento nei condomini, però non tutti si sono messi a norma con le nuove regole che vogliono i termostati di controllo su ogni termosifone, su ogni calorifero. Sembra che gli adeguamenti vadano a rilento, come mi dicevi fuori dalla diretta, soprattutto nel Mestrino. Sì, guarda, ti confermo, credo che in realtà sia un dato più che Mestrino, sicuramente allargato quantomeno alla nostra regione, ma insomma adesso probabilmente sarà un dato anche abbastanza nazionale. E siamo molto in ritardo, Francesco. Entro il 31 dicembre l'abitazione con riscaldamento centralizzato dovrebbero avere tutte le valvole termostatiche appunto applicate sull'installate sui termosifoni. Per quanto ci risulta, noi abbiamo coinvolto nelle indagini la CGA di Mestre, quindi gli artigiani, e quindi gli installatori artigiani. A quanto risulta, insomma, siamo a livelli di 2 case su 5, quindi poco più di un terzo ha installato le valvole termostatiche. Siamo molto indietro, il tempo stringe, tra l'altro insomma era un lavoro da fare d'estate, ovviamente, però ricordiamo che attualmente non esistono proroghe, come qualcuno pensa, perché più di qualche persona si è rivolta a noi chiedendo appunto conferma di una proroga per l'installazione. Attualmente non esistono proroghe, è probabile che venga previsto un periodo di tolleranza, ricordiamoci che però ci sono delle sanzioni elevate, tra i 500 e i 2500 euro per chi sgarra, quindi insomma bisogna mettersi in regola. Qua entrano in gioco gli amministratori di condominio che devono gioco forza obbligare insomma i condomini a effettuare i lavori per installare le valvole termostatiche e quindi poter controllare ognuno con una certa precisione la temperatura da tenere in casa e quindi poi eventualmente usufruire dei vantaggi del risparmio, perché pare proprio che un risparmio ci sia in questo. Il risparmio è indubbio per chi ha già le valvole termostatiche da magari le messe prima dei tempi, il risparmio lo ha già notato, perché comunque può arrivare anche attorno al 30%, poi dipende anche da vari fattori. Volevo aggiungere una cosa proprio sul discorso degli amministratori, è probabilmente questo uno dei nodi più cocenti di questo argomento, perché sono dei contrasti grossi tra inquilini e amministratori che spesso presentano dei preventivi e dei capitolati che forse vanno anche oltre ai costi reali, nel senso che evidentemente c'è chi forse sceglie delle valvole termostatiche di particolare qualità. Noi diciamo che insomma per ogni valvola si dovrebbero spendere al massimo 100 euro, 70 per la valvola e 30 per il lavoro, insomma per delle valvole diciamo di livello discreto, ecco, quindi diamo un'indicazione su questo. Per quanto riguarda la caldaia, chiaramente se è una caldaia condominiale il costo è molto elevato, può andare tra i 25 e i 30 mila euro. Sì, il costo della caldaia ovviamente dipende anche da quanto grande è il condominio e anche sul costo delle valvole, caro Gianluca, credo che ci siano delle differenze anche a seconda del tipo di termosifone che si ha in casa, perché ce ne sono alcuni di particolarmente vecchi che utilizzano delle valvole che costano un po' di più. Sì, infatti diciamo che, come indicato tra l'altro dall'installatore della CGA, i 70 euro per la valvola sono riferiti appunto a una valvola che viene definita diciamo di discreto valore, cioè discreto potenza. Però ecco, per dare un'indicazione di massima, parlando appunto anche con gli artigiani stessi, abbiamo potuto dare un valore diciamo al termovalorizzatore diciamo, che può variare quindi dai 100 ai 150 euro, chiaramente poi può essere anche un costo più elevato a seconda del tipo di abitazione. Come dicevi tu prima Gianluca, ci sono delle sanzioni anche importanti per chi non si mette in regola, mi domando però chi farà i controlli. E questo è il solito problema diciamo all'italiana, nel senso che è chiaro che non sarà facile andare a controllare tutti i condomini, verranno evidentemente selezionati dei condomini a campione, però Francesco ci auguriamo tutti che insomma i primi mesi siano mesi di ampia tolleranza, perché è difficile pensare che tutti i condomini saranno messi in regola entro il 31 dicembre 2016. Siamo molto in ritardo, non credo che ci troveremo a fine anno con tutti i condomini a norma. Speriamo che siano in molti a mettersi in regola. Per chi non l'avesse fatto, ricordiamo che insomma dipende dalla grandezza del condominio, ma in un paio di giorni questi termostati si possono installare, quindi si può fare anche in questo periodo. Sicuramente era meglio fare tutti i lavori nel periodo estivo. E ripeto, i ritardi derivano soprattutto dal malumore dei proprietari delle case, gli inquilini, di fronte a dei conti molto elevati, dei preventivi molto elevati. Eh sì, va bene, grazie a Gianluca Codognato, grazie all'Adico, che ritroviamo la prossima settimana. Grazie a te, Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.